Corrispondenze. Lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci. Gli uomini sono così. Inventano la bomba atomica, uccidono con essa centinaia di migliaia di creature e poi vanno sulla Luna. Né angeli né bestie, ma angeli e bestie. Scriveva così Oriana Fallaci. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati all'ascolto di Corrispondenze. Si conclude oggi il ciclo dedicato alle lettere di protesta, con quelle scritte contro il nucleare, energia e armi. La prima lettera che voglio leggervi è quella di Niels Bohr, scienziato danese, premio Nobel per la fisica nel 1922, per i suoi studi sull'atomo di idrogeno, è considerato uno dei più importanti fisici del XX secolo e alcune sue idee prepararono la strada per la creazione della bomba atomica. Inizialmente aveva pensato che un simile uso fosse un concetto remoto e sebbene Bohr non fosse praticante, sua madre era ebrea, per cui fu costretto a fuggire da Copenaghen nel 1943 quando i nazisti cominciarono ad arrestare gli ebrei. Viaggiò, suo malgrado, fino in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, scoprendo che i rapidi progressi che aveva fatto il progetto Manhattan verso lo sviluppo di una bomba atomica lo allarmavano non poco. Così nel 1944 incontrò Churchill, allora ministro, primo ministro, e il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt. Cercò di convincerli che il controllo internazionale di queste armi era essenziale per la pace nel mondo. E nel 1950 scrisse una lettera aperta alle Nazioni Unite. E questo è il testo, appunto, della lettera scritta dal premio Nobel per la fisica del 1922. Mi rivolgo all'organizzazione fondata allo scopo di promuovere la cooperazione fra le nazioni su tutti i problemi di interesse comune, con alcune considerazioni circa l'adeguamento delle relazioni internazionali richiesto dallo sviluppo moderno della scienza e della tecnologia. Anche se questo sviluppo promette bene per il miglioramento del benessere dell'uomo, allo stesso tempo mettendo formidabili mezzi di distruzione nelle sue mani, ha portato alla nostra civiltà una sfida di assoluta importanza. Il mio coinvolgimento nel progetto anglo-americano sull'energia atomica negli anni della guerra mi ha permesso di sottoporre all'attenzione dei governi le mie preoccupazioni circa le speranze e i pericoli insiti nella realizzazione del progetto stesso in relazione ai rapporti fra le nazioni. E poi continua Niels Bohr. La paura di essere lasciati indietro fu un grande incentivo nei diversi paesi per esplorare in tutta segretezza le possibilità di usare tali fonti d'energia per scopi militari. Venne a conoscenza del progetto anglo-americano solo quando, dopo la mia fuga dalla Danimarca occupata nell'autunno del 43, arrivai in Inghilterra su invito del governo britannico. Allora mi misero a conoscenza della grande iniziativa che già all'epoca aveva raggiunto una fase avanzata di sviluppo e tutti coloro che erano coinvolti nel progetto sull'energia atomica erano, ovviamente, ben consci dei possibili gravi problemi che avrebbe dovuto affrontare l'umanità al completamento del progetto. A parte il ruolo che le armi atomiche avrebbero potuto avere nella guerra, era evidente che avrebbero potuto compromettere a lungo termine la sicurezza del mondo. Continua Bohr. All'inizio del 1944 mi fu data l'opportunità di portare queste opinioni all'attenzione dei governi americano e britannico. Potrebbe essere nell'interesse della comprensione internazionale riportare alcune delle idee che all'epoca erano oggetto di seria considerazione. Supera senz'altro l'immaginazione di chiunque indagare le conseguenze del progetto negli anni a venire, in cui ci si potrebbe aspettare nel lungo termine che le enormi fonti d'energia che saranno disponibili rivoluzioneranno l'industria e il trasporto. L'aspetto più importante, tuttavia, è la creazione di un'arma con una potenza senza precedenti e che cambierà completamente tutte le condizioni future relative alla guerra. Oltre a chiedersi con quanta rapidità l'arma sarà pronta all'uso e quale ruolo potrebbe avere nella guerra attuale, questa situazione solleva un certo numero di problemi che richiedono la massima attenzione, a meno che effettivamente non si possa arrivare a un accordo sul controllo dell'uso dei nuovi materiali attivi. Qualsiasi vantaggio temporaneo, per quanto grande, potrebbe essere superato per importanza da una minaccia costante alla sicurezza dell'uomo. Qui è la sala controllo. Il cervello della belva, eh? Il vetro è a coibenza acustica e a prova di proiettile. Sono tutti così giovani. Beh, è un'industria giovane. Ah, ce n'è uno più anziano. Ti fa sentire meglio? No, ma sembra l'unico abbastanza grande da sapere quello che fa. È Ted Spindle. Sta con noi da prima che fosse costruito questo complesso. Oh, mi dispiace, non può filmare in quella direzione, per ovvi motivi di segretezza. Neanche un'inquadratura? No. Vi va di bere qualcosa di fresco? No, grazie. Io sì, grazie. Voi tre lavorate sempre insieme? Sì? No. No, facciamo insieme solo questo servizio sull'energia. Una volta facevo la pubblicità con queste due frane. Kimberly lavora a tempo pieno per la stazione, ma il vecchio Hector e io siamo degli indipendenti. Molto indipendenti. Che cosa è stato? Sembrava un terremoto. Ma che diavolo sta... E cosa c'è? Un rallentamento della turbina? Sì. Arresto del generatore, rifiuto del carico d'esercizio, arresto della turbina. Blocco del reattore. Ok, linea fuori alimentazione, disconnessi dalla rete. Ted, stabilizza il reattore. Bene. Radioattività nel contenimento. A quale livello? Livello 8, Jack. Ok, Borden, rilassati. Deve essere provocata dalla valvola di sicurezza che si è aperta dopo l'arresto. Può darsi. Holt, stacca le pompe di riciclo. Ehi, Barney, vieni qui a tenere d'occhio l'acqua di raffreddamento e gridami la temperatura se non comincia a diminuire. Regola le valvole per mantenere la turbina in presa. E qualcuno stacchi quel maledetto allarme. Grazie, Cristo, ma come pensano che uno possa dare degli ordini con quel fracasso infernale? Il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi è un film proprio che denuncia i rischi del nucleare. È Sindrome cinese, il film del 1979 di James Bridges, con Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas. Pensate, uscì il film poche settimane prima che si verificasse il grave incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania, dove ci fu una fusione parziale del reattore del 25%. Quando si dice tempismo. Proseguiamo con la lettera scritta da Niels Bohr alle Nazioni Unite sulle armi nucleari. Il momento presente, scrive Bohr, in cui quasi tutte le nazioni sono coinvolte in una lotta mortale per la libertà e l'umanità, potrebbe a prima vista sembrare inadatto per qualsiasi accordo vincolante riguardo al progetto. Non solo, le potenze aggressive hanno ancora grande forza militare, anche se i loro piani originali di dominio del mondo sono stati frustrati, e sembra evidente che dovranno in ultima istanza rinunciarvi, ma anche quando ciò accade, le Nazioni Unite contro l'aggressione potrebbero dover affrontare gravi cause di disaccordo per via di atteggiamenti conflittuali verso problemi sociali ed economici. Continua Niels Bohr. Soprattutto sarebbe bene rendersi conto che siamo davanti soltanto all'inizio di uno sviluppo e che probabilmente in un futuro molto prossimo verranno trovati i mezzi per semplificare i metodi di produzione delle sostanze attive e per intensificarne gli effetti a un punto tale da poter permettere a qualsiasi nazione in possesso di grandi risorse industriali di avere il comando di forze distruttrici che vanno oltre tutto ciò che potevamo immaginare possibile fino a poco tempo fa. Pertanto, l'umanità intera dovrà affrontare pericoli di straordinaria gravità, a meno che, a tempo debito, non si potranno prendere misure per impedire una disastrosa concorrenza nell'ambito di armamenti così formidabili e per istituire un controllo internazionale della fabbricazione e dell'uso di questi materiali così potenti. Fino alla fine della guerra ho cercato in ogni modo possibile per uno scienziato di sottolineare l'importanza di comprendere appieno le implicazioni politiche del progetto e di sostenere che prima che potessero sorgere dubbi sull'uso delle armi atomiche venisse avviata una cooperazione internazionale al fine di eliminare le nuove minacce alla sicurezza del mondo intero. Mi appello alle Nazioni Unite con queste considerazioni nella speranza che possano contribuire alla ricerca di un approccio realistico ai gravi e urgenti problemi dell'umanità. Gli sforzi di tutti i sostenitori della cooperazione internazionale, individui così come nazioni, saranno necessari per creare in tutti i paesi un'opinione per esprimere a gran voce, con sempre maggior chiarezza e forza, la richiesta di un mondo aperto. 9 giugno 1950, firmato Niels Bohr. Chi è? Signor Godel, sono Kimberly Wells. Devo parlarle, è molto importante. Un momento, lui chi diavolo è? Il mio operatore, Richard Adams, non si preoccupi. Per l'amor di... Signor Godel, lei ieri sera mi ha mentito. Che ho quando fatto? Mi ha detto che era una valvola bloccata. Era proprio una valvola bloccata. Non lo era affatto. Kimberly le ha detto che ho filmato l'incidente. Che cosa? Poi ho portato il filmato alle udienze di Point Conception e l'ho mostrata a un ingegnere nucleare. Avete quasi scoperto il nocciolo, signor Godel. Signor Godel, lei mi ha mentito ieri sera. Non andremo via finché non ci dice come è andata esattamente. Un fissato antinucleare vi racconta che abbiamo quasi scoperto il nocciolo, però non è successo, vero? L'abbiamo fermato in tempo per un semplice motivo. Gliel'ho detto che il sistema funziona, Cristo, quel sistema funziona. Non è questo il problema. Se non è questo il problema, quale diavolo è? Amo quella centrale. È tutta la mia vita. Qual è il problema? Il tremito. Quella maledetta vibrazione che ho sentito durante l'arresto della turbina mi preoccupa. E invece non ha preoccupato nessun altro. E nei miei controlli scopro che qualche idiota Ha falsificato le radiografie delle saldature. Trovo incredibile che un uomo possa spontaneamente falsificare i collaudi di un reattore nucleare. Mio Dio. Oh, Cristo. Significa che manca di sicurezza. Significa che quella vibrazione era un allarme che ci imponeva di chiudere la centrale. Ogni saldatura dovrebbe essere di nuovo radiografata. Certo, si tratta di milioni di dollari e nessuno ne vuole sentire parlare. E nessuno vuole credermi. Però se mettono troppo in pressione quella pompa e scoppiassero quei tubi... Accade la sindrome cinese. È possibile. Una ambiziosa cronista televisiva e testimone, insieme al suo cameraman, di un incidente nucleare che i supervisori dell'impianto considerano un piccolo difetto di funzionamento. Ma appunto il cameraman lo ha filmato di nascosto e questo dimostra che la piccola anomalia ha quasi causato la fusione del reattore. La prossima lettera è stata scritta da un gruppo di donne. Nell'agosto del 1981, 36 donne, 4 uomini e numerosi bambini marciarono per quasi 200 km da Cardiff alla base aeronautica britannica di Greenham Common per protestare contro la decisione della NATO di stoccare 96 missili nucleari americani nella base di Berkshire, luogo che fino alla Seconda Guerra Mondiale era stato suolo pubblico. Affiliate a Donne per la Vita sulla Terra, questo gruppo pacifista e femminista gallese si batteva contro la guerra fredda e la crescente minaccia delle armi nucleari. Consegnarono, quindi queste 36 donne, al comandante della base una lettera in cui esprimevano la loro opposizione a ogni escalation della corsa agli armamenti. Ma non potendo incontrare il comandante in persona, allestirono un bivacco improvvisato al di fuori dei cancelli che il mese successivo era diventato un insediamento stabile, soprattutto un campo per sole donne che rimase aperto poi fino all'anno 2000. Le manifestanti utilizzarono catene di lettere circolari per farsi pubblicità e incoraggiare soprattutto altre donne a partecipare a dimostrazioni non violente presso la base, azioni che fossero innescate più che organizzate. E questa quindi è la lettera che le donne scrissero alle donne. Care donne, la base aeronautica statunitense di Greenham Common nel Berkshire è il primo posto in Europa dove 96 missili cruise verranno stoccati nel 1983. Da settembre 1981 ci sono donne che si accampano davanti al cancello principale della base per protesta contro questa decisione presa senza consultare la gente di questo paese. In quanto donne siamo state espressamente invitate a restare a casa e a considerare gli uomini i nostri protettori. Noi però rifiutiamo questo ruolo. Non possiamo starcene in disparte mentre altri pianificano di distruggere la vita sulla Terra. Andare alle manifestazioni non basta. Dobbiamo trovare altri modi di esprimere la forza con cui ci opponiamo a questa follia. Ci resta un anno per annullare la decisione del governo sui missili cruise. C'è ancora tempo per fermarli, con pace e con amore. Firmato le donne di Greenham Common. Chi è quel tizio affacciato lassù? McCormack, amministratore delegato della società. Ma siamo in pericolo con la centrale in funzione. Non credo, diminuito del 25%. E perché non ferma del tutto? Se lo faccio non conto più niente. Finché siamo in funzione rappresenta una minaccia. Io comincerei... Comincerò con una introduzione generale per spiegare al pubblico dove siamo e poi presenterò lei. Lei dovrebbe dire chi è, che compiti esplica qui e da quanto lavora qui. Sì. Ha già pensato a che cosa dirà? Lo vorrebbe un caffè? Sì. Camera 1. Pronti, camera 2? Ecco, allora è pronto. Camera 2. Vai, Pete. Qui è Pete Martin dallo studio del canale 3. Tra un istante interromperemo il nostro programma speciale da una centrale termonucleare dove un dipendente armato di pistola ha imposto rifare un servizio. Pronti, David. Esclusivo. Pronti. In diretta. Pronti? Kimberly. Vai. Qui è Kimberly Wells. Vi parlo in diretta dall'interno della sala controllo della centrale termonucleare di Ventana. Con me è il signor Jack Goodell che è entrato qui impadronendosene con la forza, esigendo quindi di fare una dichiarazione. Signor Goodell. Sono un direttore di turno della centrale e lavoro qui fino da prima che aprisse. Voglio che sappiate una cosa. Io non voglio che nessuno soffra. Non intendo cercare di contaminare lo stato della California. Voglio soltanto che voi... Lunedì scorso, alle 3:36 del pomeriggio, c'è stato un avvenimento. C'è stato un incidente. Ed è proprio qui. Non ci sono. Cristo santo. È stato più grave di quanto vi hanno fatto credere. Si è trattato di un errore. Quello che è successo è che un relè difettoso nel circuito del generatore è scattato ed ha aperto gli interruttori. Cristo, non così io, tecnico. So che sembra ridicolo. Quel relè costerà 10 o 12 dollari soltanto, però protegge il generatore. E per giunto è successo che l'indicatore del livello dell'acqua nel reattore, il livello è indicato da una lancetta che si è bloccata. A causa dell'indicazione errata dataci da quella lancetta, abbiamo subito cercato di impedire che l'acqua di raffreddamento penetrasse nel sistema. E in realtà invece si era pericolosamente abbassato il livello dell'acqua. Con la lancetta principale del vapore isolata avevamo una sola pompa ausiliaria per rimettere acqua di raffreddamento nel nocciolo. Ma però questo non è quello che... Dai, forza, veniamo al sodo. È successo. Forza. Ma non è per questo che io sono qui, è che... Ah, sto parlando a fare. No, va benissimo. Non è così complicato. Però c'è un'altra cosa. C'è, vedete che... Ci siamo. Bene, De Young, dacci il via e interrompiamo il circuito. D'accordo. È così complicato, mentre invece è semplice. Signor McCormack, semplice. Siamo pronti a iniziare le operazioni per il blocco. Terribilmente complesso. Ed è molto difficile. Voglio dire, è successo, ma non è per questo che... Non è per questo... La vibrazione. La vibrazione non era normale. C'è stata una vibrazione. E non mi vogliono... Non era normale. La conosco. Fatelo e fate presto, Cristo. Jack Lemmon e Jane Fonda in questo brano tratto dal film Sindrome cinese del 1979. L'ultima lettera per oggi è stata scritta dal pediatra americano Benjamin Spock. Lui scrisse uno dei libri più venduti del XX secolo, Il bambino, come si cura e come si alleva, e scrive ad una mamma che si era rivolta a lui perché era incapace di rispondere a una domanda che aveva fatto il figlio. Gli aveva domandato se fosse probabile lo scoppio di una guerra nucleare. Siamo nel 1985. Il dottor Spock, il 5 agosto, risponde: «Cara signora Thomas, la ringrazio per la sua lettera. Io credo ancora che i cittadini possano cambiare il percorso del governo se mettessero da parte cinismo e inerzia. In America solo metà dei cittadini si prende il disturbo di andare a votare. Certamente la risposta alla mancanza di soldi per le scuole è smettere di sprecare soldi per le armi nucleari, che non fanno altro che farci sentire tutti più in pericolo. La mia risposta a un bambino che mi fa domande su una catastrofe nucleare sarebbe: potrebbe accadere, ma non deve per forza, se tutti noi votiamo e facciamo pressione. Un genitore può rendere partecipe il figlio di quello che lui o lei sta facendo e proporgli di scrivere una lettera al primo ministro, al presidente o a un membro del Parlamento o del Congresso. E grazie all'attivismo politico che finì la schiavitù, venne abolito il lavoro minorile e le donne hanno ottenuto il voto. In fede firmato Ben Spock. Corrispondenze. Si conclude qui, vi do appuntamento domenica alle 16:30. Vi lascio con un brano tratto da un importante, magnifico concerto che si svolse proprio nel 1979 a New York, intitolato No Nukes. Ve lo ricordate, a sostegno del movimento antinucleare, fu organizzato da un gruppo di musicisti attivi anche politicamente in risposta proprio a quell'incidente alla centrale nucleare di Three Mile Islands di cui vi avevo accennato all'inizio della trasmissione. Fu registrato al Madison Square Garden, anzi furono quattro giornate di concerti e culminati poi in un mega concerto gratuito al Battery Park sulla punta meridionale di Manhattan di fronte a 200.000 persone, e noi ascoltiamo il brano cantato da Jackson Browne, Graham Nash e David Lindley, The Crow on the Cradle. Quindi vi auguro una splendida domenica, rimanete con noi, ciao a tutti da Dani Coraucci. And if it's a boy, he'll carry you.